24 mattino. 8 e 17 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori. Adesso è il momento, come sapete, di parlare di economia. Soldi e dintorni. Buongiorno Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti, Alessio, ciao. E allora, oggi parliamo di un bel argomento. Sì, sei entusiasmata anche tu. Ci siamo scaldati anche noi su questa cosa. Per i nostri nipotini, pensa che teneri che siamo. Parliamo di bambini, ma di futuri studenti universitari. Esatto. E di tasse. Ormai sono, come dire, percorsi, credo, scontati. Quali ragazzi di oggi, fra gli 8 e i 10 anni, fra 10 anni non faranno l'università? Almeno non sperano di farlo, o non prevedono di farlo. Le famiglie lo sperano senz'altro, può sempre infatti succedere che, insomma, si vada fuori dal percorso, però. Però diciamo che mediamente, teoricamente, la scommessa è quella, insomma, bambini che hanno oggi 8-10 anni, sicuramente fra 10 anni hanno la strada universitaria piuttosto aperta. E allora facciamo il legame con il tema di cui vogliamo parlare questa mattina. Noi oggi in realtà parliamo di un mercato assicurativo che sta esplorando nuove strade. Generalmente, come sapete, mi rivolgo agli ascoltatori, le polizze assicurative sono pensate per compensare, per risarcire o per proteggere gli assicurati nel caso di inconvenienti, nel caso di eventi nefasti che possano procurare o un danno economico o un danno morale. Nel caso invece di cui vogliamo parlare questa mattina, il principio è invertito, perché parliamo di una copertura assicurativa che scatta se si verifica un lieto evento, e cioè se si raggiunge il massimo dei voti all'esame di maturità, e cioè il 100 e lode. E qui siamo già, come dire, Alessio, dobbiamo anche ricordare di quando abbiamo fatto la maturità noi. Non c'era il 100. No, c'era il 50. Io ho preso 58. Tu no, io un po' meno, ma insomma il punto era il 60. Cioè, puntava a 60. Allora, in sostanza, di cosa parliamo stamattina? Di questa polizza assicurativa che è stata ideata da una piccola compagnia specializzata nei rami cauzioni e credito, la Arfin, che appunto scommette sulle nuove leve universitarie. Buongiorno all'amministratore delegato di Arfin, Francesco Iaccini. Buongiorno. Buongiorno. Allora, come nasce l'idea di questa polizza assicurativa? Adesso ne spiegheremo naturalmente le modalità, il funzionamento, quanto costa il premio, quindi qual è l'impegno finanziario anche che le famiglie dovrebbero sostenere. Però quello che mi incuriosisce in primo luogo, dottor Iaccini, è come appunto le è venuto in mente questo di esplorare anche questo segmento di mercato che immagino sia del tutto inesplorato, quindi l'assicurazione legata all'università. Sì, diciamo che questa formula, che poi spieghiamo, non esiste ad oggi sul mercato. Noi siamo partiti da alcune analisi sulla situazione italiana riguardo, diciamo, a come viene, se viene premiato il merito in Italia. Poi sono usciti poi anche dei noti libri, no, di cui faccio la pubblicità volentieri, quello di Abravanel, la meritocrazia, che fanno dipingono una foto un po' disincantata di come è messa l'Italia rispetto ad altri paesi, no? Ne usciamo con un sistema dove c'è una bassa concorrenza, una bassa mobilità sociale, quindi un'incapacità, diciamo, di risalire la scala sociale, e il tutto, diciamo, quello è basato fondamentalmente sul sistema educativo, che dovrebbe essere strumento di azzeramento dei privilegi, o come direbbe Einaudi, no, dell'eguaglianza ai punti di partenza. Sappiamo che il nostro sistema educativo scricchiola un po', no? Sono stati fatti i PISA test, che è un test che misura l'uscita dalle medie di una trentina di paesi dell'OCSE. I risultati sono un po' inquietanti, perché l'Italia si attesta un po' meno della media, il Nord Italia è nella media, il Sud Italia è molto sotto la media, con delle votazioni che invece sono uguali al Sud Italia. Chi piglia 10 al Sud, piglia 10 al Nord, è uguale da un punto di vista di votazione, ma non di sostanza. Dottor Iaccini, sì, mi scusi, abbiamo poco tempo, andiamo al concreto. Quindi tutte queste considerazioni vi hanno portato a riflettere su che cosa? Queste considerazioni ci hanno portato a riflettere per dare la possibilità, diciamo, di trovare uno strumento per i ragazzi per autorealizzarsi sulla base del loro impegno e del loro merito. E quindi è nata questa polizza, che è molto semplice, nel senso che la si può sottoscrivere per bambini che non abbiano ancora compiuto 10 anni, costa solamente 550 euro. Quindi è un premio unico, che tra l'altro può essere rateizzabile, però ecco, non dobbiamo impegnarci con questa somma per molti anni. Questo è il premio che va versato, che permetterà al momento della scelta dell'università, se ovviamente il ragazzo la volesse fare, di scegliere qualsiasi campus, qualsiasi facoltà, dottor Iaccini? Esatto, la compagnia si obbliga in realtà a pagare le rette universitarie di qualsiasi università nel mondo, fino a un massimo complessivo di 120.000 euro. Ovviamente paghiamo solo gli anni in cui lo studente è in corso, quindi se va fuori corso infatti poi vanno a carico suo, ma tendenzialmente paghiamo qualsiasi università nel mondo. Ecco, dottor Iacini, insomma, però le università oggi offrono fior di borse di studio per permettere, come dire, il percorso universitario senza problemi per gli studenti e per le famiglie. Qual è la differenza allora? Ma intanto da un punto di vista degli studenti italiani, forse quelle all'estero offrono possibilità analoghe, diciamo, a queste per gli studenti meritevoli. In Italia c'è più una difficoltà. Secondo, c'è il fatto che la borsa di studio inizia una volta che è partito l'anno accademico, mentre qua noi di fatto garantiamo già il fatto che uscendo dalla maturità con il 100 e lode e passando questo SAT test nella media, quindi non una cosa stravolgente, noi paghiamo subito le rette per tutti gli anni di corso dell'università. Avete già cominciato a distribuirla la polizza? Dunque, oggi viene fatta la conferenza stampa e da domani è presente sul sito polizza100lode.it ed c'è un call center dedicato che è l'800-123-779 dove si può chiamare per avere informazioni e sottoscrivere la polizza. Poi magari lo ripetiamo, ma voglio dire, il canale distributivo che utilizzerete qual è? Bisognerà rivolgersi direttamente a voi oppure utilizzerete anche altri canali? Perché comunque, adesso non per sminuirvi, naturalmente dottor Iacini, la vostra compagnia è un po' meno conosciuta rispetto a grandi player di mercato, quindi come farete anche a farvi raggiungere? Certo, assolutamente, diciamo, al di là del canale internet e call center abbiamo degli accordi con istituti di credito e stiamo facendo accordi con la grande distribuzione organizzata per la distribuzione massiva di prodotto, diciamo, sul territorio. C'è una domanda per lei, sì, da un ascoltatore, credo. Sì, al 349-238-6666 ci scrivono: i 120.000 euro, sì, di cui parlate, che si pagheranno tra 10 anni verosimilmente, esatto, sono di quelli di oggi come cifra? Certo, allora, la domanda, sì, è chiara. Essere assolutamente trasparenti, appunto. Intanto noi paghiamo la retta universitaria, quindi se la retta universitaria è inferiore a 120.000 esatto euro, paghiamo la retta, che sia la Statale di Milano piuttosto che non Oxford, Harvard o la Bocconi. Quindi questo è un primo punto. Secondo, non sono indicizzati, quindi sono 120.000 euro di adesso, il che vuol dire che potrebbero esserci degli scompensi, ma eventualmente ci si trova nella situazione che se devo andare in una grossa università che oggi mi costa 120.000 euro, posso essere scoperto per 5-10.000 euro, quindi è una copertura di un rischio, come diciamo noi tecnici assicurativi, più che non una garanzia, diciamo che comunque è un tentativo anche di sensibilizzazione per spronare le famiglie e anche gli studenti a scegliere quello che c'è di meglio sul mercato per quello che riguarda la propria preparazione. Alessio, volevi aggiungere qualcos'altro? Ci sono altri ascoltatori incuriositi? No, c'è un'altra domanda, però credo che la risposta sia: se uno non prende 100, che fine fanno i soldi versati? Esattamente, che era l'ultima domanda alla quale volevo arrivare io con Iacini. Soldi buttati, dottor Iacini? Allora, diciamo che in realtà appunto non si accede alla prestazione della assicurazione. Qua stiamo parlando di un progetto forse un po' di più ampio respiro, vale a dire stiamo cercando di pagare tutti, pagare poco per far emergere i talenti che abbiamo in Italia. Quindi la risposta comunque è: se non passa l'esame col 100 e lode, no, non accede alla prestazione dell'assicurazione. Insomma, comunque, in ogni caso, l'obiettivo è di sensibilizzare ad essere bravi a scuola, scegliere l'università migliore e vedremo poi come vi andranno le cose. Iacini, la ringrazio molto per essere stata con noi. Grazie a voi. Buon lavoro. Giornata. Allora, oggi a Roma, sì, a Roma, oggi qui a Milano viene presentata questa polizza. Alessio. Insomma, un'iniziativa interessante, curiosa. Sicuramente vedremo, sì, se avrà successo. Oggi di che ci parli? Oggi a Salvadanaio parliamo dell'acquisto della casa, però senza l'agente immobiliare, senza intermediari. Ci sono molte iniziative di siti che si occupano di inserzioni gratuite o a pagamento, come funzionano, quanto costano e cosa ci permettono di fare. Insomma, sempre come risparmiare. È la mia fissazione, solo che io invece uso la carta di credito in maniera meno male che ci sei folle. Tu. Da quale pulpito. Grazie Deborah Rosciani. Ciao Alessio. 8.32, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi, staremo insieme fino alle 9, ripartiamo adesso con le principali notizie di oggi. Dopo 12 ore di vertice a Berlino, alla sede della cancelleria, il futuro di Opel resta legato a due sole ipotesi, Fiat e Magna. Una decisione potrebbe arrivare entro domani, secondo fonti del governo tedesco. I due gruppi avrebbero ora le stesse chance. I lavoratori della Saras in Sardegna sono di nuovo in sciopero dopo l'incidente di martedì in cui hanno perso la vita tre operai. Intanto la Procura di Cagliari ha aperto un'inchiesta sulla raffineria. Il Barcellona dei giovani, pensate, un'età media in campo di soli 22 anni, strappa la Coppa della Champions League alla leggenda del Manchester United con un netto 2-0. Sul fronte dell'ordine pubblico a Roma 18 arresti, 18 denunce e 2 feriti. La stampa estera se la prende con Berlusconi, un pericolo per l'Italia, ha scritto ieri il Financial Times. Accuse disoneste è stata la replica per il centrodestra del ministro degli esteri Franco Frattini. E dopo la frase di Franceschini, in difesa del padre, sono scesi in campo i figli del premier che chiedono di non confondere il piano privato e quello politico. 349-238-6666 per i vostri sms. Vogliamo tornare a parlare di immigrazione, fare un punto su questo. Qualche giorno fa avevamo raccontato una storia, la storia di un giovane di origini marocchine in Italia con regolare permesso di soggiorno da molti anni e che l'azienda dei trasporti milanese non ha potuto assumere come dipendente perché non è in possesso della cittadinanza italiana. Un caso di discriminazione involontaria sicuramente, sembra, come avevamo spiegato, determinato da un regio decreto del 1931. Adesso, ieri, abbiamo letto sulla stampa locale, ma non solo, un caso analogo che si è verificato a Genova. Questa volta riguarda ancora più persone, è almeno il terzo o quarto caso che accade in Italia, e questa volta la storia riguarda 5 aspiranti infermiere all'ospedale, infermiere, adesso entreremo nel dettaglio, all'ospedale San Martino di Genova. La storia ce la facciamo raccontare prima di tutto da Patrizia Bellotto, che è segretaria della funzione pubblica della CGIL di Genova. Buongiorno. Buongiorno. E allora, che cosa è successo a queste persone? Beh, intanto una specifica. Non è un concorso per infermieri, ma un concorso per operatori sociosanitari. Dunque, diciamo, quell'attività proprio di accudimento. Sottolineo questa cosa perché in questi casi dovrebbe essere accertato il possesso di una professionalità particolare piuttosto che il possesso di uno status come quello della cittadinanza. Queste persone sono immigrati, sono dell'America Latina, sono peruviani, ecuadoreni, filippini, sono in possesso di grandissime qualità da questo punto di vista professionale. Sì, perché questo non è in discussione, cioè non è che non sono state selezionate per questo, i criteri erano tutti in regola, è stato proprio chiarito che l'inghippo è un altro. L'inghippo è il mancato possesso della cittadinanza italiana o europea. Così è quello che ci ha scritto il direttore delle risorse umane, la dottoressa Storace. E noi riteniamo che questo sia un caso di discriminazione. Per fortuna queste persone si sono rivolte alla CGIL, abbiamo messo in campo tutte le nostre iniziative sia da un punto di vista politico, e per fortuna ieri abbiamo già avuto il riscontro da parte della regione, dell'assessore Montaldo, che ha inviato una lettera alla direzione di San Martino dicendo che ritiene sbagliata questa scelta. Dunque, insomma, è importante questo risultato. Anche sul piano legale, perché parliamo di questo, perché allora richiariamo, si tratta di 5 aspiranti assistenti sociosanitari, che io avevo definito sbagliando infermieri, ma insomma parliamo dell'ospedale San Martino di Genova, che per la mancanza del requisito della cittadinanza italiana o europea di un paese della comunità non hanno potuto essere assunte dall'ospedale in regola con tutti i documenti, quindi insomma con tutti i requisiti, i criteri. Il motivo per cui, diciamo, l'appiglio legale dell'ospedale qual è stato? C'è un qualcosa di analogo a quello di cui abbiamo parlato noi in precedenza, cioè questo regio decreto per cui i pubblici ufficiali devono essere di cittadinanza italiana, una vecchia interpretazione, forse una vecchia norma, però sentivo che si fa riferimento anche a una legge del 2001. Allora, Qui andiamo proprio per ipotesi, perché la comunicazione di esclusione alla prova, e dunque non siamo ancora nella fase dell'assunzione, semplicemente l'ammissione, noi chiediamo l'ammissione alla prova concorsuale che si terrà il 10 giugno. L'esclusione alla prova, dell'ammissione alla prova, non è giustificata in alcun modo, se non con questa mancanza del requisito, ma non c'è nessun riferimento a norme o leggi o regio decreti. Noi riteniamo che, così come è già accaduto nel 2004, perché San Martino è recidivo da questo punto di vista, riteniamo che il riferimento per analogia o per, insomma, per estensione di un ragionamento sia proprio fatto a questa pseudo funzione di pubblico ufficiale che potrebbero svolgere gli infermieri. Ecco, fermiamoci qua. Infermieri. Sì, Patrizia Bellò, sì, perché in questo caso si tratterebbe di un'altra funzione. Però il punto che ci preme sottolineare fino a questo momento è questo. Poi magari parliamo anche più avanti della necessità che l'Italia ha in generale di operatori nel campo socio-sanitario anche di origine straniera, perché è così che va questo mercato in Italia. Alfredo Mantovano, sottosegretario agli interni, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Grazie per essere qua con noi. Allora, poi parliamo anche più in generale di tutta la polemica che c'è stata sui respingimenti. Ieri Maroni ha fatto un punto, ha detto le cose vanno molto bene da questo punto di vista. Però su questo caso specifico, sono casi isolati, ma si può, secondo lei, Mantovano, intervenire in qualche modo per evitare che si accavallino queste discriminazioni involontarie che però stanno accadendo? Ma guarda, io premetto, non conosco il caso specifico e avrei bisogno di tutti i dettagli della questione per averne un'idea un po' più precisa, magari anche sentendogli l'altra parte. Quello che si può dire ascoltando le informazioni che voi avete dato fino a questo momento è la conferma di un dato di fatto, cioè dei problemi che vengono fuori da un fenomeno che tutto sommato è recente e che si scontra con norme che in parte, risalendo ad un periodo in cui questo fenomeno nel nostro paese era assente, anzi era presente il contrario, l'emigrazione, non l'immigrazione, avevano presente tutt'altro contesto. A ciò si aggiunge in certi casi, più di una volta li ho constatati di persona, anche un eccesso di formalismo e qualche automatismo molto rigido da parte di varie burocrazie, non soltanto statali. Tutto questo provoca ogni tanto nel concreto dei corticircuiti. A me capirò più di una volta di rilevare dei dinieghi di riconoscimento di cittadinanza a fronte, per esempio, di un reddito che non si riteneva congruo, quando invece c'erano tutte le premesse per ritenere che quella persona fosse autosufficiente dal punto di vista finanziario, così come la legge prevede. Tutto questo per arrivare a quale conclusione? Che finora l'attenzione, sia pure in modo discontinuo, si è rivolta per necessità ad una esigenza di contenimento della clandestinità. Credo sia venuto il momento, soprattutto se si riesce a consolidare i risultati che su questo fronte si stanno raggiungendo, di cui ieri parlava il ministro Maroni, credo sia venuto il momento di ampliare lo sguardo e di fare uno screening di tutte le norme che non hanno una loro logica nella prospettiva dell'inserimento e dell'integrazione effettiva e non a parole, e magari anche uno screening, e questo è molto più complicato, delle prassi, dei comportamenti che ostacolano anche in questo caso un'integrazione effettiva. Perché insomma di leggi se ne fanno molte in Italia, adesso magari un intervento che vada a sovrapporsi, a eliminare questo, poi magari non è quello il punto, ma insomma così ci hanno spiegato anche all'ATM, ma forse ieri leggevamo anche lo stesso ospedale San Martino, questo regio decreto del 31 sembra veramente una cosa anacronistica. Lei parlava appunto di intervenire anche così sull'integrazione degli immigrati, su un po' anche un riorientamento delle norme, ne leggiamo di tutti i colori. In effetti ieri, solo ieri, c'erano dalla sentenza di un giudice che aveva in qualche modo avallato il fatto che un immigrato espulso perché irregolare, perché clandestino, non aveva i soldi per pagarsi il viaggio e allora poteva rimanere tranquillamente in Italia, fino al caso di Treviso, dove pare che il permesso di soggiorno senza lavoro possa essere esteso da 6 mesi a 1 anno per questa fase di crisi economica. però c'è un'altra norma più importante che sta votando la Toscana e ha fatto un po' notizia anche sui giornali. Vorrei chiederle che ne pensa. Lì si parla un po' in controtendenza rispetto a quello che ha fatto il governo, di aprire i servizi assistenziali anche ai clandestini, perché dicono è una questione di realismo, se ci sono non si può far finta di nulla. Che ne pensa? Ma guardi, io penso, lei giustamente ha ricordato prima una certa fantasia giurisprudenziale a cui si affiancano iniziative di singole regioni che hanno, guarda un po', degli orientamenti di maggioranza esattamente opposti a quello del governo nazionale. Allora, questo tema è un tema sul quale è indispensabile trovare una compattezza attorno ad alcuni principi essenziali e non invece utilizzare gli strumenti che ciascuno ha, il giudice, la singola giunta regionale, per far passare proprie impostazioni ideologiche contrapposte rispetto a quelle delle leggi in vigore. È il caso appunto di alcune decisioni, di qualche settimana fa una sentenza addirittura di una sezione della Cassazione che in presenza di un clandestino che aveva utilizzato decine e decine di documenti falsi l'ha assolto con una formula dubitativa dicendo che nulla escludeva che di quella quantità di documenti falsi almeno uno fosse vero e quindi nell'incertezza andava assolto. Mi pare che nella stessa logica ci si muova da parte della Regione Toscana, la quale non ha fatto una legge di totale opposizione, vuol fare, siamo ancora nella fase... Sì, non l'hanno ancora votata, forse proprio oggi. No. Sì, c'è però una forte decisione da parte della Giunta, in particolare del Presidente, ma cerca di introdurre un principio contenuto nell'articolo 2 di questa proposta di legge regionale, quello della cittadinanza sociale, passato il quale diventa una sorta di ombrello all'interno del quale si possono collocare delle applicazioni sul piano amministrativo esattamente contrapposte rispetto a quella della legge nazionale. Allora, è legittimo non condividere la Bossi-Fini, ma ci sono altri strumenti per contrastarla invece dell'utilizzo di norme regionali per arrivare a risultati che sono in conflitto e quindi dovranno andare necessariamente al vaglio della Corte Costituzionale. Quindi lei condivide un po', come ha detto ieri Calderoli, la posizione che potrebbe essere incostituzionale questa legge? Ma se c'è una gerarchia delle fonti normative non esiste che una legge nazionale viene, qualunque sia il contenuto, derogata da una legge regionale su questioni essenziali. Peraltro, se vogliamo entrare nel merito, la Bossi-Fini garantisce un livello di cure sanitarie essenziali anche agli stranieri non regolari. Qui si tratta di una forzatura che viene fatta per estenderlo in un'ottica di assoluta parificazione rispetto agli italiani, ma verso soggetti che non sono in regola e che quindi da un momento all'altro potrebbero essere espulsi. Benissimo, su questo aspetto mi sembra sia stato molto chiaro. Un'ultima domanda gliela vorrei fare sul tema che abbiamo solo accennato, il punto che ha fatto ieri Maroni. Da quando è in atto la politica dei respingimenti, ha detto il Ministro degli Interni, i flussi si sono arrestati, quindi la valutazione su questa politica è molto positiva. Le aggiungo solo una cosa, lei nei giorni scorsi era stato tra gli esponenti della maggioranza che forse più era stato sensibile anche un po' agli appelli che erano venuti fuori dalla conferenza episcopale, dai vescovi, a mantenere una certa sensibilità, una certa tolleranza e soprattutto sul tema dei richiedenti diritto d'asilo. La politica dei respingimenti così com'è va avanti? Siete soddisfatti? Beh, intanto questa politica evita dei morti in mezzo al mare. Chi finora ha evocato la necessità di riconoscere in modo ampio lo status di rifugiati e ha attaccato il governo nazionale dicendo che viola dei diritti essenziali, forse ha trascurato che il più essenziale dei diritti è quello alla vita e che se si finisce in fondo al mare certamente non si può parlare poi di altro. Il nostro obiettivo è molto chiaro, e cioè quello di, evitando queste tragedie, puntare ad un accordo che coinvolga l'Unione Europea nel suo insieme, le organizzazioni internazionali a cominciare dall'Alto Commissariato per i Profughi e Rifugiati e la Libia, che ha mostrato estrema disponibilità negli ultimi mesi, e di far sì che il vaglio delle richieste di asilo avvenga direttamente sul suolo libico, con un'assunzione di oneri da parte dell'intera Unione Europea e con la ripartizione di coloro che saranno riconosciuti rifugiati o che avranno il riconoscimento di una protezione umanitaria, quindi una clausola ancora più larga, tra tutti i 27 Stati dell'Unione. L'Italia finora ha fatto la sua parte in maniera più ampia e dal mio punto di vista anche migliore rispetto a ogni altro paese europeo. Però questo contrasta con una logica comunitaria di Unione in cui se esiste una ripartizione tendenzialmente paritaria delle risorse, deve esistere anche una ripartizione dei doveri e degli impegni. Grazie Ministro. 8:49 minuti, gentili ascoltatori, avevamo annunciato anche un altro argomento, però un'ultima domanda la volevamo fare invece a Patrizia Bellotto, che è rimasta in collegamento con noi, mentre Mantovano credo che ci abbia salutato. Stavamo parlando un po' dell'immigrazione in generale, ma eravamo partiti dal caso di Genova, 5 aspiranti, io avevo detto infermiere, insomma operatrici, operatori nel campo socio-sanitario che hanno ricevuto un no per via della mancanza del criterio della cittadinanza italiana o europea. Però lei, nel caso di Ligure e Genova, ci può spiegare quanto importante sia per questo settore del mercato della manodopera in Italia la presenza di stranieri? È indispensabile, è assolutamente indispensabile. La mancata ammissione alle prove di queste persone rischia di determinare dei buchi, perché c'è una richiesta molto elevata di queste professionalità, ma la risposta che riceviamo dal cittadino italiano è veramente carente. Una cosa volevo dire rispetto a quanto, se mi è permesso, rispetto a quanto diceva il sottosegretario: con i respingimenti il governo si è occupato di un 15% di quello che è il problema dell'immigrazione, lasciando senza nessuna risposta l'altro 75%. Un'altra cosa, la Costituzione sancisce dei diritti riconosciuti a tutti, che sono il lavoro, la salute e l'istruzione. Sì. Noi cominciamo dal lavoro e insomma lo stiamo difendendo a tutti i costi. Va bene, ci fermiamo qua. Insomma, speriamo di avere fatto un po' di luce su questo aspetto. Grazie anche a Patrizia Bellotto della CGIL di Genova e naturalmente grazie anche al ministro al sottosegretario Mantovano, Alfredo Mantovano, che era ospite con noi fino a pochi minuti fa. Adesso, come detto, un altro argomento, perché insomma, ieri ci ha colpito, secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, gli italiani hanno ripreso a fumare con maggiore volontà, verrebbe voglia di dire, dopo un calo forte del consumo di sigarette che era seguito alla legge antifumo nei locali pubblici, che secondo praticamente tutti aveva dato una mano o a smettere o a diminuire col fumo. Per la prima volta da 6 anni a questa parte gli acquisti, i consumi di sigarette sono cresciuti, secondo appunto questi dati ufficiali del Ministero, del 3,4%. Ne parliamo col padre della legge antifumo, Girolamo Sirchia. Buongiorno. Buongiorno a lei. Ex ministro della salute, naturalmente. Allora, che succede, Sirchia? Tanto lavoro per nulla, avrebbe voglia di dire. Ma no, guardi, la legge di divieto di fumo nei locali pubblici e nei luoghi di lavoro funziona abbastanza e il suo scopo non è quello di ridurre il numero di fumatori, ma è quello di evitare che chi non fuma venga esposto al rischio di contaminazione da fumo, no? Quindi il suo scopo è stato raggiunto, viene rispettata. Ecco, ma perché viene rispettata? Viene rispettata perché sono le persone stesse, sono gli italiani stessi che la difendono, che la rispettano. Certamente non per l'intervento esterno né delle cosiddette forze dell'ordine, né delle ASL, né di altri che vigilino su questo fatto. La vigilanza, che è sempre il solito punto debole del nostro paese, è calata. Praticamente zero, no? Sostanzialmente zero. In alcuni luoghi di lavoro, vedi le redazioni dei giornali prima di tutto, ma anche gli ospedali, si continua regolarmente a fumare, non c'è nessuno che interviene, soprattutto i locali pubblici. Posso confermare una parte di quello che diceva, lei parlava di redazioni dei giornali, qua siamo però, in una radio, ma qualche cosa si vede. Ma possiamo allora dire che... No, sì, prego, prego. Subito, sì. Dicendo, allora, io non ho mai visto un vigile che abbia multato qualcuno perché fumava dove era proibito. né un ufficiale della ASL che fosse intervenuto a fare una visita in un'azienda per verificare se veniva rispettato il divieto. Però dico, al di là di questo, quindi sì, la mancata vigilanza, mancano le azioni di contrasto all'iniziazione al fumo, che erano il secondo elemento su cui si doveva intervenire, che stavamo cominciando a studiare. Le campagne antifumo, la pubblicità. Ma soprattutto le campagne antifumo, ma soprattutto contrastare la occulta pubblicità che viene continuamente propinata ai giovani dalle televisioni, dal cinema, dove si vede solo gente che beve e che fuma, e noi sappiamo che questo è deleterio per i giovani, certo, perché inizia il fumo, no? Quindi questa è la prima cosa. Dello sport si continua a propagandare indirettamente i marchi delle sigarette, anche se è vietato. E quindi a fronte di questo non esiste un'azione di contrasto che faccia sì che ai ragazzi, ai giovanissimi, e si faccia capire con tutti i mezzi che sono a disposizione che il fumo per loro è un danno. Questo non avviene. Perché abbiamo assistito sui giornali a varie spiegazioni, anche le più fantasiose. C'è chi ha detto con la crisi si ricomincia a fumare. Mi sembra invece di capire che da quello che dice lei è che lei ha messo l'accento sulla mancanza di controlli, che non c'è mai stata. Quindi passato, potremmo dire così, il momento, il ciclone Sirchia, cioè il fatto che comunque la gente si è sentita anche spinta un po' emotivamente, culturalmente, forse a smettere di fumare. Adesso i controlli non ci sono, si è abbassata la guardia e quindi si prende a fumare. Non c'è attenzione, quindi sostanzialmente a questo punto è chiaro che senza iniziative non si ottiene risultati. Senta, non so se perché adesso noi abbiamo un governo che non ha neanche il ministro della salute. No, ma ce l'avrà, io penso. Ce l'avrà. Adesso so che Fazio sta studiando delle iniziative, sta mettendo in atto delle iniziative, ma naturalmente anche lì bisogna vedere quante risorse ci sono, perché le campagne costano, lei lo sa meglio di me. Insomma, per fare delle campagne efficaci bisogna farle ripetutamente nel tempo, per anni. L'OMS dice per 5 anni una deve durare una campagna, deve pagare profumatamente i mezzi di comunicazione, i consulenti che lo fanno, coloro, cioè vuol dire, è una cosa che esige forti investimenti. C'è interesse a investire nella salute pubblica? Secondo me poca. Perché sempre troppo poca, purtroppo. Sempre troppo poco, purtroppo. E su questo ci dobbiamo fermare perché sono giunte le 8:56 minuti. Io ringrazio Girolamo Sirchia, grazie per essere stato grazie con noi. A lei. Buona giornata, ex ministro, padre della legge antifumo. 8:56 come detto, grazie anche ad Alessandro Marcotulli, a Laura Marchesi in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Ci fermiamo qua, 24 mattina torna naturalmente domani mattina con la lettura dei giornali, adesso il giornale radio e poi Giuliano Ferrara.